No, solo abbiamo rimesso la chiesa al centro del villaggio. È un detto francese. Convocati di Carlo Genta e Pierluigi Pardo. Vedo che la chiesa non sia più al centro del villaggio, ma sia stata incendiata anche dalle invasioni barbariche dei tifosi della Roma. Insomma, ce ne restano tre in Europa League, anzi nelle coppe europee, tra imprese come quella della Juventus, remontate fallite o mai cominciate come quella dell'Inter, e appunto invasioni barbariche come quelle degli ultra della Roma. Non credo che quelli che ieri sera hanno intimato a Totti e soci di levarsi la maglia, come era già successo a Genova, siano andati ieri a vedere i musei romani. Gratis. Giorgio De Luca, nostro autore, oggi c'è Pietro D'Accordo in regia, Daniele Bonamici in redazione. Ma ci sono i sorteggi e alla Juve ha detto benissimo il sorteggio di Champions League. Voi come la pensate? Monaco gita al Principato il 22 di aprile, mercoledì. L'andata si giocherà invece a Torino il 13 di aprile, martedì. Juventus-Monaco, poi c'è il Paris Saint-Germain contro il Barcellona, ma all'andata non ci saranno Ibra e Verratti e c'è una chiara favorita. C'è la riedizione della finale dell'ultima Champions, cioè il derby di Madrid, Real contro Atletico, e c'è il Bayern, cui pure, insomma, in questa Champions League continua ad andare abbastanza bene, perché giocherà con il Porto, prima partita in trasferta. Quanto all'Europa League, la Fiorentina ha preso la Dinamo Kiev, che ieri ha massacrato l'ultima, sportivamente ovvio, l'ultima resistenza inglese, l'ultimo avamposto inglese, cioè quello dell'Everton, 5-2, gara di andata in Ucraina il 15 di aprile. Il Napoli, che ha preso la più forte, secondo me, di tutto il lotto, che è quella che ieri sera ha abbastanza umiliato l'Inter, perché è una partita che il Wolfsburg non ha mai perso di mano fin dal pronti via. Wolfsburg-Napoli il 15, ritorno a San Paolo il 23, poi c'è Siviglia, che in questa coppa è abbastanza padrone ormai da molti anni, giocherà con lo Zenit San Pietroburgo, e poi il quarto di finale delle outsider, degli underdog, Bruges contro il Dnipro, che era i supplementari, ha eliminato l'Ajax. Questo il freschissimo risultato delle urne. Ma intanto, mentre sta arrivando Pierluigi Pardo, voglio farvi sentire qualche voce, come ad esempio quella di Pavel Nedved a commentare il sorteggio fortunello della Juve. E devo dire che per fortuna io ho visto tutte e due le partite di Monaco, ai quarti non arrivi per caso, hanno fatto due grandissime partite, anche se seconda partita hanno sofferto qualcosina in più, però devo dire che mi hanno impressionato Emirates Stadium a Londra, perché hanno fatto una grandissima partita, secondo me sono forse più pericolosi fuori casa che in casa, perciò dobbiamo stare molto attenti. Vabbè, Gabriele da Torino va bene con la scaramanzia, va bene che il pallone rotondo, che si gioca 11 contro 11, che le fortune degli attaccanti li fa la squadra e che è merito di tutti, anche dei magazzinieri, va bene tutto questo, però gita al Principato non esagererei, scrive Gabriele. Se Monaco è arrivato ai quarti un motivo ci sarà, poi visto il nostro rapporto con quella coppa va bene tutto, però è chiaro che alla vigilia tutti i tifosi della Juventus, almeno quelli che auspicavano un prosieguo morbido, avevano due obiettivi: uno in Portogallo, dove andrà il Bayern Monaco, il Porto, e l'altro vicino ai nostri confini, cioè al Principato di Monaco-Monte Carlo, che c'è qualcuno che mi scrive: si pronuncia Mona and Co. No, si pronuncia Monaco. Allora, tra l'altro, a Monaco a fare il team manager c'è un ex collega che ha lavorato all'Inter, Andrea Butti, che ha commentato così questo sorteggio. ci aspetta una sfida difficilissima, ma anche d'altra parte affascinante, comunque un quarto di finale di Champions League, quindi sapevamo che non avremmo incontrato una squadra facile da affrontare. La conosciamo bene, la Juventus è una squadra che ha vinto gli ultimi 3 campionati, direi che probabilmente vincerà anche questo se non succedono cose strane, quindi sicuramente è una squadra, un rivale molto molto molto difficile da affrontare. Siamo pronti. Pronti via, non è più il Monaco di Falcao, il Monaco degli investimenti straordinari, però è una squadra ovviamente da quarto di finale di Champions League, che ha eliminato l'Arsenal sebbene soffrendo le pene dell'inferno soprattutto nella partita di ritorno. Un'altra voce da farvi sentire prima del traffico, mentre vi ricordo 800 24 00 24 per intervenire, commentare, dire la vostra. Allora, torniamo a ieri sera, torniamo al dopo partita dell'Olimpico, alla passeggiata della Fiorentina su ciò che resta della Roma, cioè un cumulo di macerie. Sabatini, architetto della Roma dell'anno scorso e con linee un po' più incerte della Roma di quest'anno, si è preso molte responsabilità e ha difeso l'allenatore. Ora, la sensazione è che Sabatini è la voce della società. La sensazione è che in questo momento sia proprio la società che manchi alle spalle di Garcia, della squadra, di una Roma che si è sbriciolata. Sabatini. L'allenatore rischia qualcosa? Assolutamente nulla. L'allenatore della Roma e rimane l'allenatore della Roma. Su questo non ci sono dubbi. Nei prossimi mesi poi faremo altre valutazioni che riguarderanno me e le scelte che sono state fatte, ma l'allenatore non si tocca. Quindi Sabatini si è preso tutte le responsabilità, ha detto alla fine della io dovrei andarmene via per quello che ho fatto, non lo faccio perché non scappo, però tra poco rivedremo tutto, magari me ne vado, ed è stato lui paradossalmente secondo me a dire all'allenatore non si tocca, l'ha detto lui e l'ha detto la curva degli imbestialiti che ieri hanno preteso il pubblico processo sotto la curva di Totti e compagni. Traffico. Io conosco Monaco del Tibete, Monaco Monte Carlo, Bayern Monaco, Grand Prix di Monaco. Tutti convocati. Siamo soli contro tutto e soli contro tutti, ma questo lo sappiamo e lo sapevamo prima della partita. E questo ci deve caricare, perché penso che questa stagione può finire ancora di una bella maniera. E l'unica bella maniera è qualificarci per la Champions. Probabilmente io non sono stato capace di insegnarli ancora al 100%, e quindi loro stanno lavorando bene, ce la mettono tutta. Quindi probabilmente è questo. Io ho un messaggio di Emiliano cui non so come rispondere. La mia ex è riuscita a recuperare tutte le password di Facebook, email e altro, perché io a casa non usavo la password sull'iPad, quindi è colpa mia. Non lo so, Emiliano, però non sappiamo come fare ad aiutarti, io e Pardo, anche se ho sospetto che Pardo sia colluso con poteri oscuri, perché ieri aveva già impostato un navigatore su Monte Carlo. Sì, no, quello quindi magari ha recuperato la password di Emiliano insieme alla sua ex. Ma perché Emiliano ci scrive sta roba? Non lo so, non ho idea. Ah, vabbè. Probabilmente perché sa che tu sei colluso con poteri oscuri, dato che già sapevi l'esito del sorteggio. Ho già il navigatore, 340 chilometri mi pare. Beh, insomma, dai, trionfo per la Juve, un trionfo per Fiorentina e Napoli, un sorteggio complesso invece, sì. Con soprattutto per il Napoli. Sì, soprattutto per il Napoli, con secondo me a questo punto tutte e due possono passare il turno e tutte e due possono uscire, scusate la banalità, ma insomma diciamo che sono secondo me due partite 50-50, La speranza ovviamente è che vadano avanti tutte e due. Ieri il Wolfsburg, insomma, l'abbiamo visto contro l'Inter, l'avevamo già visto all'andata, la sensazione è che non è che poi sia stato così infinitamente superiore nei azzurri, ma non lo è stato, so, però, è stato però nettamente più concreto, ha sbagliato di meno, sì. sia davanti che dietro, insomma, nei ruoli chiave. E ieri ha dato anche la sensazione di gestire la partita. Guarda, io ti sentivo in telecronaca ieri, hai sottolineato insieme a Cravero che comunque, se si fa il computo delle occasioni da gol, non c'è stato poi tutto questo squilibrio. Ieri ho avuto l'impressione di una squadra che riusciva ad arrivare in porta, che aveva pieno controllo della situazione e riusciva ad arrivare in porta con geometrie estremamente semplici. Quindi questa è la, dalla TV è la sensazione che ho avuto io. Saluto anche Luca Calamai, la Gazzetta dello Sport. Ciao Luca. Calamai, ciao, complimenti a Paddo per la telecronaca, Sì. Ieri sera mi ha entusiasmato. Compagno di avventura. Sì, anche come, per me, come sempre. Ha cercato di tenere vivo una partita che era finita dopo il gol del Wolfsburg, però questo fa parte dei suoi obblighi professionali. No, complimenti a parte tutto, molto bravo. Ma noi, sai, siamo degli illusi, perché siamo sempre, il telecronista è megalomano. Bambini sempre, dentro, no? Esatto, che possa succedere il miracolo. Anche se oggettivamente era abbastanza difficile, per me, se rimaniamo all'Inter, se l'è giocata malissimo e forse oggi bisogna avere il coraggio forse di mandare un sms a Mazzarri e di caro Walter, non era solo colpa tua. Sì, lo so che è impopolare questo discorso. Ma è così, non era solo colpa sua. Io non ho particolari simpatie o frequentazioni con Mazzarri, ce n'ho più con Mancini, se la mettiamo su questo piano. Però mi pare evidente che la rivoluzione non c'è stata. La squadra ha speso molto, ha fatto dei grandi investimenti, però è quella di prima. Confronto. Medel da una parte, Luis Gustavo dall'altra, forse il riassunto è quello. Ma io volevo girare un sms a Luca Calamai, che è questo, non so se lo ritrovo. Me l'ho trovato, di Giuseppe, perché ne è un sacco. Una squadra che ne prende 3 nei primi 20 minuti è una squadra che gioca contro l'allenatore. Scrivi sulla Gazzetta dello Sport questo fallimento di Mancini e di Garcia. Allora, la Roma è andata in confusione dopo il 7-1 col Bayern, ha perso tutte le certezze, una squadra che è invecchiata di colpo, ha sbagliato completamente il mercato. Ma io stimo tantissimo Sabatini, ma se scegli Doumbà avendo Salah, mi dispiace dirlo, hai completamente toppato, hai fatto un errore clamoroso. È una squadra che devo dire, l'immagine di Totti in panchina e De Rossi, a quale io sono molto affezionato e mi provocava un senso di tenerezza, si dà proprio il senso del vecchio, del finito percorso chiuso, ma era chiuso nel momento in cui un allenatore, e voi Pardo soprattutto, un uomo di calcio lo sa benissimo, quando un allenatore attacca pubblicamente una squadra, questo è successo a Verona dopo lo 0-0 col Chievo, è finito tutto, quindi c'è poco da ragionare. L'Inter ci ha fregato Mancini, perché gli abbiamo creduto a questo ottimismo ipergalattico, questo ottimismo che pensato che aver preso la strada giusta voleva dire che già arrivati all'arrivo. È anche precauzione, Luca. Certe volte, no, ma lui è andato molto molto sicuro, molto spavaldo, cioè quasi aggredendo in maniera simpatica a chi dubitava. In realtà poi ieri, ma anche prima di ieri devo dire, ma ieri in maniera evidente, è come quando uno si sveglia e dice ma ci hanno raccontato un'altra storia. L'Inter ha una difesa improponibile, tra l'altro non gioca l'unico campione che è il portiere, ha un centrocampo non si sa qual è l'idea, ha un buon attacco, questo sì, ma da qui a parlare di scudetto, Mancini ha parlato di scudetto per l'anno prossimo, cioè bisognerebbe avere 200-300 milioni, e non mi pare che queste siano le condizioni dell'Inter, che è una squadra che tra l'altro ha dei problemi con l'UEFA per motivi economici. Però ci abbiamo creduto, perché lui ci trasmetteva questa di solito in un mondo, anche in questo caso il dottor Pardo ne può essere testimone, dove tutti navigano nascosti, tutti dicono 10 lire in meno rispetto di quello che pensano, e abbiamo preso per buono uno che invece ci raccontava delle favole straordinarie. Però Luca e Pierre, abbiamo preso per buono anche Garcia, che dopo la partita di Torino e quella famosa settimana in cui la Roma si è sbriciolata, Juventus e poi Bayern Monaco, aveva detto vabbè, siamo forti, vinciamo lo scudetto. Però scusate, sono dichiarazioni di intenti. Però se la Roma, come dice Luca, è davvero così fragile dall'essere esplosa per una settimana sbagliata, vuol dire che c'era già una fragilità intrinseca, no? Sì, io poi fra l'altro, cioè, dopo quella settimana sbagliata la Roma sarà riportata a -1, dopo Juve-Roma e Roma-Bayern, insomma delle altre cose sono successe. Io non lo so, io non so che dirti sulla Roma, nel senso che è una crisi enorme, razionalmente gli elementi ci sono tutti, c'è Gervinho che è crollato andando in Coppa d'Africa e poi tornando spompato, c'è Strootman che si è rifatto male, dietro sappiamo che per tutta la stagione non c'è stato Castan, insomma è una squadra completamente diversa rispetto a un anno fa, alcuni giocatori, ma questo lo si poteva anche immaginare, erano comunque chiamati ad avere un anno in più, come Michael, come De Santis, come lo stesso Totti, chiaramente devono fare i conti con l'anagrafe, però ecco, da lì arrivare a pensare a un crollo di questo tipo, io francamente facevo fatica e non me l'aspettavo, insomma. Questa è la squadra adesso veramente, che, ma sono tante partite che non tira in porta, non segna, non produce niente. Poi ieri è andato in onda secondo me la pagina finale, no? Sì, poi ne parliamo. Ieri è stata una partita sbagliata in tutto, con degli errori individuali mostruosi. Poi qualcuno mi dovrà spiegare, al di là del fatto che De Santi non stesse bene, la logica del portiere di Coppa che riguarda anche l'Inter. Sì, chiaramente. Ma che è sta roba? Questa è una follia. È una follia. Ma cos'è sta roba del portiere di Coppa? C'è un ruolo dove non serve il turnover. Dove è vietato il turnover? Perché il portiere deve essere il giocatore che ha la certezza di giocare, non soggetto a turnover. Ti posso dire cartesianamente perché non funziona. Perché se il secondo portiere fa bene, finisce per mettere in difficoltà il primo portiere. Certo, no? certo, si crea un impaccio ulteriore. Come è successo con Andukar, per esempio, a Napoli, con quel famoso Napoli-Udinese, rigore parato, eccetera, eccetera. E mi ricordo che da quel giorno, insomma, è circolato a Napoli. Ah, però, no, Raffaele aveva già fatto qualche errore. E poi è arrivato a Palermo e lì sono cambiate le gerarchie. Però, secondo me, ha ragione Benitez su quello. Cioè, c'è il portiere titolare e poi c'è il secondo portiere. Poi, che al secondo portiere tu possa fare la quinta o la sesta partita del girone di Europa League a qualificazione ottenuta, ci sta. Ma tu non vai a Wolfsburg a giocare la partita della vita con Carrizzo. C'era Alessandrelli che entrava alla fine del primo tempo di Juventus Pescara, ultima giornata per la festa scudetto. Cioè questo. Avellino Juve, 0-3-3. Mi dovete spiegare allora cosa ha promesso la Juve a Neto, perché Neto secondo me è il miglior portiere insieme a Handanovic e Buffon del campionato. Mi dovete spiegare cosa gli ha promesso per l'anno prossimo, perché che Buffon prima o poi va in pensione, Luca. Ah, te lo vedi, eh? Lo vedi l'anno prossimo Buffon che dice: prego Neto, gioca te la Champions, perché facile. Mi fa piacere. Sì, sì, facile. Oppure no, gioca te lo scudetto. Cioè, io so che la Juve aveva chiesto a Buffon di rinunciare alla nazionale, nemmeno quello, giustamente dal suo punto di vista ha rinunciato, ma questa è una parentesi, ecco. Io sono molto sorpreso della scelta di Neto, perché andare a combattere tra virgolette come Buffon era con Buffon, e come negli ultimi 3 anni i centravanti sono andati alla Roma a combattere il ruolo dei centravanti con Totti. Cioè, ci sono dei giocatori che sono dei simboli, ma questo non fa parte della storia di oggi. Però c'è il tempo dalla sua parte. Pur io non sono d'accordo, nel senso che io fossi il lui avrei fatto una scelta per andare subito a giocare in una grande squadra, e secondo me lui si aspetta un po', insomma, con un po' di pazienza le offerte le trova. Per poter giocare in una grande squadra, al di là del fatto che qua la Fiorentina è diventata, sta diventando sempre di più una grande squadra. Ecco, la Fiorentina, perché poi c'è il The Other Side of the Moon, è un'altra squadra da gennaio in poi. Per me è cambiata completamente. Sì, certo. Nel certo. Senso che prima, onestamente, mi sembrava che fosse anche, in difficoltà. Scusa, però anche frutto di un mercato, e così chiudo con Luca Garamai, frutto di un mercato che è stato un capolavoro, perché anche ieri Sarà si è dimostrato un potenziale crack. Luca, Fiorentina con il Napoli è la squadra, l'unica squadra italiana in corsa su 3 fronti. Vabbè, la Juventus, che però deve andare a rimontare quello svantaggio di Coppa Italia proprio a Firenze, però l'unica squadra in corsa su 3 fronti. Sì, devo dire che Salah, io sono rimasto sorpreso, probabilmente colpevolmente non lo conoscevo, ma non è solo corsa, non è solo qualità, ha una lucidità nella fase conclusiva impressionante, come ha detto Montella. Palla al piede, solo Messi corre più veloce, cioè è stato un acquisto incredibile, ma si è sommato all'acquisto di Diamanti, che credetemi è stato importante. Ma certo. Oggi la Fiorentina e Napoli, che tra l'altro, se ci pensate bene, sono le due squadre che hanno più bilanci in attivo, sono le due squadre più futuribili, a parte la Juventus che è pericoloso, e la Lazio. C'è una futuribilità perché hanno, pensate, la Fiorentina sta ottenendo questi risultati senza avere Rossi, c'è un crack assoluto, con Gomez che ha giocato 2 mesi e con 30 milioni in cassa dei soldi di Cuadrado. Sì. Insomma, io fossi della Valle avrei molti motivi per sorridere. Come no, grazie Luca. Ciao a tutti. Ciao Luca Calamai. Ciao Calamai, viva Volta Mantova. Andalo via. Allora, Borsa, poi torniamo a piazza lì. 800-24-0024, numero verde. Convocati. Non c'è sta il veleno. Ieri la scena era quella di Nainggolan attorniato da contestatori, lui era in tribuna ieri e si è preso questi rimbrotti, ha sbagliato la preparazione, non c'è sta il veleno eccetera, ha detto ah, ragazzi calma, in campionato questa partita sbagliata, in campionato sono sempre secondi, però la sequenza delle partite sbagliate si allunga in maniera pazzesca per la Roma. Pierluigi Pardo sempre collegato con noi naturalmente. Raffaele Darimini, Santo da Trevisi, primi due ascoltatori, 800-24-0024 è il numero verde. Raffaele, buongiorno. Innanzitutto buonasera a tutti voi. Ahimè, sono tifoso dell'Inter, quindi se dalla Valle più di un motivo per poter sorridere, avrei più di un motivo per piangere ovviamente. Ah. E vi dico che ieri sera fino al momento del loro gol ci aveva anche un po' creduto, però da buon tifoso ho assistito in uno stato di quieta rassegnazione, quasi disperazione, tutto il resto della partita. Sì. Io dico, voi, a voi che siete esperti di me, perché? C'è qualcuno che mi sa rispondere perché? Non è che hanno uomini da serie B, dei brocchi, non lo so, è un problema di mentale, di cervello, di non lo so, buh. Chiedo qualcosa a voi, chiedo lumi, non ci capisco più niente ormai. No, la retrocessione no, ma l'Inter è decimo in campionato italiano, giocava contro la seconda del campionato tedesco, no, Pierluigi? Hai provato a tenere viva questa partita al microfono, ma era dura dopo i primi 5 minuti? Sì, soprattutto è stato completamente sbagliato l'approccio, perché aveva ragione Mancini quando diceva che l'ideale sarebbe fare il 2-0 all'89esimo, invece l'Inter se l'è giocata da subito con l'atteggiamento di chi ha costruito occasioni ma neanche concesse, cioè prima del gol dell'1-0 dell'Inter ci sono, scusate, del Wolfsburg, ci sono comunque due palle gol, sì, due palle gol importanti, quindi, sì. Alla fine secondo me è stato sbagliato anche concettualmente il tipo di partita, poi certamente ci sono errori individuali, insomma il posizionamento di tutta la squadra sul gol dell'1-0 è imbarazzante. La prestazione di Juan Jesus non è all'altezza, Ranocchia pure insomma mille volte non ha confermato le speranze, quindi no, mi sembra questa, dispiace francamente perché comunque la qualificazione è stata buttata via all'andata ed è stata buttata per degli errori abbastanza banali, cioè si era messa anche bene col gol di Palacio dopo pochi minuti e perché sono state fallite tante occasioni. Secondo me ha ragione Gravero quando sottolinea che oltre agli errori difensivi, oltre agli errori di Carrizo della partita d'andata, poi ci sono stati anche gli errori offensivi. Ieri Benaglio ha fatto delle grandi parate, però dietro a delle grandi parate c'è anche magari un po' di autocritica da fare da parte degli attaccanti. Ieri l'Inter 4-5 occasioni importanti comunque le ha costruite sì. Quindi sì, poi anche quella molto casuale di Guarin sul finale del primo tempo poteva cambiare dal punto di vista degli episodi, non del copione, la storia di questa partita. Poi quella che poteva cambiare di più insomma era la palla gol di Osvaldo, buonanotte, di Cardi che ha la palla gol 2 minuti prima di gol del vantaggio del Wolfsburg, sì. Quella è parata di Benaglio, quella alla sua sinistra, sì. All'angolino, quella roba lì sicuramente sicuramente... poi sono partite che si reggono su equilibri fragili, il copione può cambiare improvvisamente, però appunto sulla scorta di episodi, perché l'Inter non ha, salvo il fuoco dei primi 5 minuti, ha dato l'impressione di essere prigioniera comunque del Wolfsburg dal punto di vista tattico, fisico anche. Santo Treviso. Sì, salve, buongiorno, sono Santo. Tifosissimo della Fiorentina, sono veramente contento della partita di ieri sera, anche un po' contento nei vostri confronti, quando dicevate che l'Europa League se la giocava l'Inter e la Roma, che la Fiorentina era fuori, se vi ricordate, c'è anche un pizzico di goduria, perché sì, l'avete sottovalutata. No, io guarda, sulla Fiorentina ribadisco quello che ho detto, cioè secondo me ne esistono due, è cambiato tutto a gennaio, quindi questa cosa che la Fiorentina dovesse andare fuori con la Roma, non lo so, io non penso di averla mai detta, mi sembrava molto equilibrata, magari non mi aspettavo il 3-0 ieri sera, ma tra l'altro c'è un giochino abbastanza stupido che si chiama Champions Tweet, che facciamo con un gruppo d'amici, e ieri ho fatto un tweet, avevo puntato sul 2-1 della Fiorentina, quindi pensa quanto non mi aspettavo il 3-0, non mi aspettavo un crollo così, però partita che non è mai esistita. Che la Fiorentina fosse favorita con la Roma in queste condizioni non ci sono dubbi. Nel passato, se ci riferiamo a prima di gennaio, io francamente pensavo che la Fiorentina fosse destinata soltanto per un posto in Europa League, e c'era un momento nel quale secondo me poteva anche rischiare. Sì. No, ma l'avevamo detto, sembrava un progetto tramontato, quello della Fiorentina, di Montella, di questo tiki-taka all'italiana, eccetera. Sembrava un progetto che mostrava la corda, poi ha saputo trovare nuova energia anche dal mercato. Però tornerei a parlare di Roma. Duello psicologico ancora più pesante con Shakir che invita tutti i giocatori a rimanere fuori dall'area. Ancora Gonzalo, cambia angolo, lo sbaglia Fiorentina in vantaggio all'Olimpico. La chiusura di Torosidis, Skorupski prova a evitare il corner ma trova l'assist e il gol per il 2-0 di Marcos Alonso. Errore imperdonabile di Skorupski. Batte Mati Fernandez, occhio al centro a Basanta tra gli altri, che va a saltare in maniera pulitissima per il gol del clamoroso 3-0 José María Basanta. Io sono mortificato, ma io non sono abbattuto, perché adesso c'è solo una cosa da fare, c'è da difendere il secondo posto in campionato, perché c'è due possibilità: o molliamo, ma non sarà con un allenatore che molla, perché io non mollerò né un secondo fino alla fine di questo campionato. È per questo che porterò con me tutti i giocatori che hanno la personalità, il carattere e l'orgoglio per risollevare la Roma. A volte si fanno degli errori, ne ho fatti tanti, anche altri direttori sportivi hanno fatto errori, però non producono un effetto nefasto immediato, perché la cosa viene magari mascherata da altre situazioni. Invece nel caso della Roma l'errore si è svelato in tutta la sua potenza. Saluto e ringrazio Luca Telese, conduttore di Macrex. Buongiorno. Ciao Luca. Senti, devo richiamare Luca, scusa. Aspetta. Sono tornati i tempi cupi. C'è l'appuntamento per Luca, perdonami un secondo, c'è l'appuntamento preferito di Pardo, ma anche traffico, di Cruciani. Traffico, come sai. No, Garone Rocca, poi parliamo del campo. Rimanere è un atto di coraggio? È un atto di responsabilità. Sarebbe pavido andarsene adesso, anche se magari le stupidaggini che sono state fatte consiglierebbero questo, ma sarebbe una fuga, qui nessuno scappa. Tutti convocati. Allora, Luca Telese, dicevamo, sono tornati i tempi cupi. Hai sentito la citazione? Lugarone Roca, non avevo dubbi, dedicata. Luca, sono tornati i tempi cupi anche sotto la curva. Una scena orribile che fra l'altro rivela meglio di qualunque altra cosa che c'è ormai evidente una guerra nello spogliatoio della Roma. C'è anche lo scaricabarile nello spogliatoio della Roma, quindi il problema di sottoporsi a centri di supplizi neomedievali è anche il fatto che uno dice beh, però ho fatto questo, ho pagato il pegno, sono stato vicino ai tifosi. Ma ti ricordi l'ultimo ti ricordi l'ultimo giocatore a capochino alla presentazione dopo la Coppa Italia persa con la Lazio, all'esordio di Garcia? Sì, tu mi stai chiedendo un giudizio su questo, no? Sì, sì. Su questa è andata sotto la curva. È incredibile vedere Totti che parla con i parassiti per coprire, no? Anche perché c'è questa idea come se fosse... È così plateale, ma teniamo un segreto. E è il plateale che non va bene. E, no, ti volevo dire una cosa che farà sorridere qualcuno, ma credo che la crisi della Roma anche ieri è stato offuscato parta da un problema fisico. Cioè, nella catastrofe della Fiorentina continuano ad esserci due infortunati. Sembrava una squadra di pattinaggio, scivolavano tutti, compreso gli Aic, che poi si becca espulsione perché nella scivolata, perché lui stava perdendo il pallone scivolando, va a fare quel fallo in cui colpisce il tallone del giocatore avversario. Quindi il primo grande enigma, perché la squadra è crollata fisicamente al punto di avere la contabilità, qualcuno ha tenuto esattamente, ma credo 30 infortuni, no? E avere una tenuta di gioco così impresentabile. E soprattutto partendo da questo problema vero, cioè la squadra non sta più in piedi da gennaio, non sta più in piedi a un livello competitivo, si sfascia lo spogliatoio. Cioè sotto c'è qualcosa di demolito, c'è una parte con Garcia, una parte contro, una parte che dice vabbè allora sono arrabbiato. Ci sono anche l'accenno, secondo me, che dobbiamo leggere con più attenzione, quello a chi vorrà, agli uomini di coraggio, diciamo, cioè chi è che vorrà venire con me a fare questa battaglia, io la faccio, no? Poi dice qualcuno mi vuole fuori, sto facendo, sai, parla come mangi la traduzione, col cavolo, perché io resto fino alla fine. Ma non è un messaggio fuori, calcolando anche che i tifosi dicevano 11 Garcia, è un messaggio dentro, cioè se qualcuno mi vuole fuori, qualcuno di voi, virgola stronzi, sì, sappiate che io no. Io resto e a questo punto gioco pure con la primavera, perché non mi porto dietro quelli che non stanno con me. Sì, quindi sì. È un quadro devastante. Io sono abbastanza d'accordo con questa lettura di Luca Telese. Non capisco, invece non ho capito la lettura della curva, 11 Garcia, non lo so, faccio fatica. La scena di ieri sicuramente è brutta e l'abbiamo detto mille volte, bisogna anche sottolineare che il livello di pazienza dei tifosi della Roma quest'anno è stato comunque molto alto. Cioè la scena di Roma-Bayern non era un'altra curva quella di ieri sera, la scena di Roma-Bayern dopo i 7 gol presi convinceremo il tricolore, o tutte le volte in questi anni che la Roma ha ricevuto, penso quando è finito il campionato 2008 e quando è finito il campionato 2010 col secondo posto con 4.000 persone a Fiumicino, insomma sono segnali di enorme attaccamento e di enorme passione. Quindi ieri è andata in onda ovviamente la frustrazione, la disperazione dei tifosi. Non è una bella scena, sono d'accordo, assolutamente sì, non è una bella scena. Però i fischi sono qualcosa che si ripete dall'inizio del 2015. Ma ci mancherebbe altro, scusa. No. Voglio dire, questa squadra, ragazzi, oggi è ampiamente sotto il par, sì. Sotto il par delle ambizioni, sotto il par delle... Facciamo un calcolo banale di punti raccolti in campionato. Secondo me, se si fa una classifica avulsa a girone di ritorno, si ha una brutta sorpresa. Cioè, secondo me, la Roma ha conquistato sicuramente meno punti del Chievo, sicuramente meno punti del Sassuolo. La Roma ha segnato 16 gol nelle ultime 18 gare ufficiali. Capisci? Neanche un ma i punti, è ancora più incredibile i punti. Cioè, nel girone di ritorno la Roma ha fatto più punti, credo, soltanto del Cagliari, del Cesena. Ah no, il Cesena forse non credo. Vabbè, ma ne ha fatti 11, il Cesena. La sostanza è chiarissima. E del Parma. La sua squadra, cioè, è chiarissima, una squadra che non... Lo strepitoso girone d'andata continua ad ammortizzare il danno incredibile di questo crollo. Luca, sto leggendo una mail che è questa: quando Totti e De Rossi lasceranno, la Roma tornerà a vincere, i due vecchi senatori viene marcio dello spogliatoio. La scrive un ascoltatore, la sto leggendo sul telefono. Allora, dirò un'altra cosa che non è nel tono di quello che si dice nelle radio locali romane, eccetera. I trovo orribili gli stereotipi, quindi mettere sullo stesso piano Totti e De Rossi in questo momento mi sembra sbagliato. Paradossalmente, siccome c'è stata una foto, è diventato i due capitani. Allora, Totti in minutaggio ci dice che sta giocando più dell'anno scorso. Ha recuperato i gol nel derby, ha fatto un gol non decisivo ma bellissimo, e sta facendo qualunque cosa, ha accettato sostituzione al massimo con qualche mugugno, mi sembra che a Totti non si possa chiedere nulla di più, non riesco proprio l'elemento, a dire l'elemento cosa patologico. Si dovrebbe chiedere di più a Totti, l'elemento... si può dire indirettamente la squadra continua a essere costruita in modo totticentrico, però siccome poi Dumbia non funziona e gli altri non funzionano, gli Aic ha segnato, sembra che abbia fatto catastrofi, ha segnato 8 gol, cioè di che stiamo parlando? Sì, certo, sì, Totti sì, non sì. Si può dare la colpa, ragazzi, ma non lo so. Grazie Luca, ciao, ciao, ciao. Pier, ciao. Ti lascio l'ultimo minuto, il 45. Sì, no, 45. Sulla cosa di Totti, sì. il ragionamento che si può fare sul fatto, come diceva Lippi la settimana scorsa a Tiki-Taka, che gioca troppo, cioè che probabilmente la gestione di un giocatore non più giovane dovrebbe essere diversa, però abbiamo visto anche per esempio ieri quando non gioca, non è che improvvisamente ci sono i colpi di bacchetta magica, ci può essere un discorso, diciamo, complessivo, culturale, che abbiamo fatto mille volte sul fatto che Totti è stato condizionante, ma ha condizionato anche perché ha fatto 297 gol con la maglia da Roma, per cui insomma mi sembra alla fine un condizionamento che ci sta, sì, che sia abbastanza logico. Anche Del Piero a un certo punto condizionava, certo, la Juve. Sì, poi però la gestione di Del Piero è stata diversa, ricordiamo quella di Capello, meno romantica, meno romantica. Forse alla fine è più efficace, perché insomma sì, la Juve ha continuato a vincere anche senza Del Piero, quindi sì, Totti è diverso. Pier, devo chiudere, ci sentiamo domenica. Sì, ciao, un abbraccione. Ciao. GR. Non si rendono conto che il tempo è finito. Finisce qua primo tempo. Tutti convocati. Tutti convocati all'800240024 per parlare di sport. Siamo sul calcio, ma tra poco digressione su un grande evento di domenica, la Milano-Sanremo. Tra l'altro domenica pomeriggio c'è niente da vedere, no? Dal punto di vista calcistico c'è una partita, cos'è? Juventus-Genoa, no? Juventus-Genoa alle 15, tutto il resto la sera. E quindi spazio per la Milano-Sanremo. Ma adesso, ascoltatori, dicevo, Moreno Vicenza, buongiorno. Sì, buongiorno, pronto? Pronto, eccoci. Sì, buongiorno, grazie della convocazione, io avevo già chiamato una volta, intanto approfitto per fare i complimenti a voi, Carlo e Pierluigi. Chiamavo solo per dire una cosa, non ho potuto, non posso per problemi di lavoro seguire tutta la trasmissione, ho sentito parlare molto di Roma, di Inter, sì. Permettetemi di dire grazie Toro per ieri, certo, nel senso che se queste due squadre che ho appena detto giocassero un poco con il cuore che ha messo il Toro ieri, forse avremmo qualche squadra in più faccio fatica a sentire, sì, no, ma grazie alla parola giusta per il Torino, perché ha fatto una stagione, sta facendo una stagione meravigliosa, non solo in Europa. Si è chiusa ieri con pieno onore delle armi col portiere dello Zenit, che ha fatto i bambini coi baffi, segnato il solito Glick, che è un giocatore pazzesco. Allora, in campionato Iturbe 31 milioni, un gol, mentre Camille Glick 6 gol in campionato, poi ha segnato anche in Coppa. Allora, facciamo così, nel dire grazie al Toro sentiamo cosa ha detto ieri Ventura dopo la partita. Sono dispiaciuto soprattutto per loro, per i giocatori che lo avrebbero meritato, e anche per il pubblico che ha riempito di nuovo, tutto esaurito di nuovo il comunale. Questo volevamo dare emozioni e ricevere emozioni, direi che le abbiamo date, le abbiamo ricevute, è mancata solo la ciliegina del secondo gol che lo avremmo meritato in assoluto. Direi che è vero, però il primo è arrivato al 90esimo, magari, vabbè, chiaro che con i se e con i ma non si fa la storia. Fosse arrivato al 70esimo, magari avremmo visto un finale di partita diverso. Però pieno onore delle armi al Torino. Michele Roma, buongiorno. Sì, cioè, buongiorno, grazie della convocazione. A lei. Quello che volevo dire io per quanto riguarda la Roma, secondo me è un'opinione personale, nel senso che io sono tifoso della Juve e anche se vivo a Roma. Il problema della Roma, secondo me, in questo momento è che non ha una presidenza e che esistono dei contratti fatti da alcuni giocatori molto importanti che, secondo me, anche se non sono in condizioni fisiche, devono per forza giocare mettendo, diciamo, in crisi l'intera squadra. Questo secondo me è il problema che andrebbe detto anche ai tifosi che credono fondamentalmente che ci siano delle persone che fanno lì e hanno la casacca e la portano a tutti i costi, ma quando dietro ci sono dei grandissimi, secondo me, interessi economici che sì, stanno destabilizzando non so questa se una, non so se è una questione di contratti però, Michele, non so se è una... Credo che alcuni di questi giocatori abbiano dei contratti in cui la loro mancata presenza sia penalizzante, quindi magari anche in condizioni non, diciamo, fisiche non buone. Cioè, stiamo parlando di De Rossi, giocatore più pagato del campionato italiano, 6 milioni e mezzo all'anno? Sì, stiamo parlando di questo. E anche perché poi quello che succede all'interno dello spogliatoio, altrimenti non si capirebbe, perché con la presenza di un presidente, di un allenatore che impone ai giocatori fatto... di giocare chi deve giocare veramente. Michele, sul fatto che quando ci siano questi momenti la presenza fondamentale sia quella della società non c'è alcun dubbio. In questo momento la presenza della società è quella di un Sabatini praticamente dimissionario, che ancora oggi ha detto tipo aspettate 2 mesi, poi mi levo dalle scatole. Questa è la voce della società, cioè una società che, se è Sabatini, è una società esautorata. La proprietà in questo momento sta da un'altra parte. Ho detto che voglio aprire, poi torniamo su questi argomenti, 800240024 con voi, voglio aprire questa parentesi di primavera, che la primavera comincia domani, ma per il ciclismo domenica con la Milano Sanremo. Saluto e ringrazio il CT della Nazionale Italiana, Davide Cassani. Ciao Davide, grazie. Salve. Ciao, salve. Come stai? Bene, grazie. Pronto? Per la classica di primavera? Sì, la grande apertura, perché alla fine i corridori stanno gareggiando dal mese di gennaio, però per tutti, per chi non segue attentamente il ciclismo, la stagione comincia con la Milano-Sanremo, perché è la prima grande classica. Sì, sembrerà una classica del nord, è prevista pioggia. Ormai siamo abituati, 2 anni fa non avevo mai visto una cosa del genere, con il Turchino impraticabile per la neve e la corsa suddivisa in due tappe, e anche l'anno scorso non è stato un tempo clemente. Senti, pensi che sarà una corsa per stranieri? Ho paura di sì, temo anch'io. Di sì, perché i favoriti sono loro. Speriamo nel brutto tempo, speriamo in qualche invenzione da parte dei nostri campioni. Chi ti puoi aspettare? Chi ci possiamo aspettare? Allora, Nibali non è in forma, no, ma non è la sua corsa, credo. Però sai, è già arrivato una volta terzo in una corsa singola, non è che ci sia da affrontare il Terminillo come la Treno Adriatico, dove se vai forte sei lati, vai piano sei a 2 minuti. E quindi con la strada bagnata, con l'estro di Vincenzo che non ha nulla da perdere, potrebbe cercare di inventarsi qualche cosa, anche se sarà complicato. Chi va forte tra gli italiani? Davide Cimolai, questo nome nuovo, che quest'anno ha vinto 2 corse, la Iguegli una tappa da presidenza, tra l'altro l'anno scorso andò molto bene a Milano Sanremo perché scolinò nei primi 10 sull'appoggio, sì. E quindi speriamo in lui. Il suo compagno di squadra è Filippo Fossato, che è particolarmente magro, tirato, ha dimostrato di essere in buone condizioni, e la Sanremo l'ha vinta, tra l'altro è l'ultimo italiano ad aver vinto la Milano Sanremo. 2006, se non ricordo male, no? 2007, sì. 2006. E tra l'altro l'arrivo era in via Roma, dove ritorna quest'anno. Sì. Con loro c'è un giovane che, appunto, ripeto, il giovane si chiama Bonifazio, che tra l'altro abita proprio all'imbocco della Cipressa, abita proprio sul percorso di Milano Sanremo. È un ragazzo che secondo me la Sanremo la potrà vincere, ma tra qualche anno. Ma sono curioso di vedere cosa farà già quest'anno. Sì. Ha vinto il Gran Premio di Lugano ed è un ragazzo del 93, quindi sì. Giovanissimo. Sì, sì, sì, ovviamente guardi tutte queste cose anche con gli occhiali azzurri. Ma con gli occhiali azzurri ti chiedo ancora questo, Davide: sei preoccupato per la situazione che si è venuta a creare nella squadra di Nibali? Un po' preoccupato sì, perché non capisco per quale motivo prima danno una licenza e poi nel mese di marzo, quando la stagione è cominciata, ipotizzano di toglierla. Sinceramente Tutto questo non capisco, anche perché da quel che so io cose nuove non sono successe, però appunto staremo a vedere. La fortuna di Vincenzo Nibali è che è uno talmente tranquillo e sereno che non dovrebbe questo procurare fastidi alla sua concentrazione ciclistica, quindi diciamo, possa continuare nel suo andare per trovare un picco di forma nel mese di aprile per la Liegi-Bassoliegi e naturalmente difendere la vittoria, il titolo al Tour de France, dove dovrà scontrontarsi con campione del calibro di Froome, Contador e Quintana. Contador non benissimo alla Tirreno Adriatico, ci aspettavamo qualcosa di più. Pensavo che facesse meglio, ma attenzione, lui è caduto una settimana prima della Tirreno ed è caduto anche la Tirreno, quindi sai, sono piccole cose che alla fine possono disturbare un po'. In più, a differenza di Quintana, forse paga più del colombiano il freddo. Sì, sì, sì. Però comunque sì, pensavo che potesse andare meglio, ma anche lui. Grazie Davide, buon lavoro. Grazie. Grazie. Ciao. Davide Cassani, CT della Nazionale Azzurra, dunque domenica Milano-Sanremo. Allora, primo di Vito da Como, Luciano da Milano, volete sentire una... Allora, dicevamo, è la stagione di qualche presidente galera, o pseudo presidente, come sapete, o indagato, Manenti, presidente Nentella, eccetera, eccetera, ma anche dei presidenti showman. C'è qualcuno che sta rubando la scena a Ferrero, e cioè il presidente del Barese, che abbiamo già sentito l'altro giorno. Allora, prima di tornare a Vito da Como, Luciano da Milano e affrontare altri discorsoni, sentiamocelo. Sarà sbiriguda, supercazzola prematurata. Sarà. No, dico prematurata la supercazzola. Non capisco. Con scappellamento a destra. Ah, le appelle. E le sono là, guardi, a destra, là. Signor... Qui riprendo il significato cardanico, che è un significato non da me inventato. Trasmissione cardanica vuol dire movimento meccanico, coordinato. Con un unico movimento muovo più movimenti, più meccanismi. Possono essere anche degli schemi di gioco? Possono anche essere gli schemi di gioco. Ricordate che uno schema di gioco è storico, non scopriamo nulla di nuovo. Scopriamo solo la coerenza, la trasparenza e la lucidità di un risultato. È finito anche a striscia poi, fra le tante cose. Ma questo fa parte del gioco, fa parte dello scisma teatrale del calcio. Il calcio è anche questo. Purtroppo oggi ragioniamo con queste grandi parole, con il web, il sistema, la piattaforma, la comunicazione. La squadra deve immaginare di essere una falange macedone. Quindi qui non vi spiego per cosa sia la falange. Troppo complicato, perché poi tra qualche giorno giocano. È come la testuggine romana. Loro devono entrare arrabbiati e vincere. Vincere. Ora il movimento cardanico ce lo devono dare loro. Loro devono dare una rivincita, un riscatto a quel senso di patria, a quel senso cogente di forza che la città aspetta, che la città vuole, che i tifosi vogliono. Vogliono. Ma sono scarpe normali, fanno parte del mio carattere, del mio modo, non sono un modello, anzi, sono anche un po' bruttino. Però siamo in due, non in due. Io dico sempre che nella bruttezza si nascondono altre virtù. Il signor Cassarà, ragazzi, dove stiamo andando? Io me li vedo tutti questi. No, Cassarà non lo so, non ho menti per giudicare, se non il fatto che tra la testuggine romana e altre cose mi fa molto ridere. Mentre su Manenti, cosa ho detto l'altro giorno, Giorgio De Luca? Cosa ti ho detto? Che è pronto per andare all'Isola dei Famosi. Perfetto, adesso appena lo sgabbiano vedrete che se ci sarà anche questa voce, Manenti all'Isola dei Famosi. Forse il suo obiettivo primario era proprio quello, no? Di far tutto sto polverone per poi dire ok, adesso so personaggio, adesso sto dentro, poi quando esco vado all'Isola dei Famosi. Vito Como, buongiorno. Ciao, vi ringrazio per avermi dato questo spazio. Io volevo solo evidenziare una cosa. Allora, io ho 48 anni, io sono uno di quei ragazzi interisti che a 6 anni conoscevo la formazione dell'Inter a memoria, panchina, allenatore, massaggiatore, eccetera, eccetera. Sì. E diciamo, in questi ultimi anni sono tra virgolette, scusate l'espressione, schifato dal gioco del calcio, tant'è vero che non lo seguo più, non mi interessa più, ma per un semplice motivo, perché non riesco a capire perché con tutti i ragazzi giovani che abbiamo in giro noi a giocare in squadre dilettantistiche eccetera, dobbiamo andare a comprare questi personaggi, TBD, Tabata, basta che hanno un nome esotico e poi si rivelano delle sì, non so come definirli, no? I nostri ragazzi però, che sono però, a gambettare nel campetto, sì, così però, come... Beh, ma io però sono dell'idea che non lo so se ci sia questa voglia di esotico a tutti i costi. Io sono abbastanza per la legge del mercato, nel senso che se uno merita di giocare a prezzi più convenienti viene preso, ma poi è un problema che non è solo italiano, perché andate a leggervi le formazioni del Chelsea, del Real Madrid stesso, ma anche volendo del Bayern Monaco, insomma tutte le grandi squadre non sono prettamente autoctone, diciamo così. Questo è un vecchio quesito, un vecchio interrogativo. Non so se i nostri dovrebbero giocare per forza di cose o perché se lo meritano. Io penso perché devono provare a meritarselo, come dice mio amico Emiliano Mondonico. Sentiamo Lucarelli, gioca al Parma col Torino? Gioca? Ma sì, noi vogliamo giocare perché è il nostro lavoro e vogliamo rimanere a testa alta fino alla fine, perché il Parma è fallito, non è fallito il Parma, non sono falliti i tifosi, non è fallita la città e nemmeno la squadra, è fallito Tommaso Girardi. E noi dobbiamo andare a testa alta fino alla fine, se ci sarà la possibilità. Il fatto di giocare o non giocare è una nostra decisione di squadra che esula da quello che è la storia del Parma. Noi abbiamo chiesto garanzie e nuove norme alla federazione. Garanzie, nuove norme alla federazione. Vediamo se arrivano, ma soprattutto vediamo se arriveranno le ultime benedette, maledette partite del Parma in questa stagione, già fissate tra l'altro le date dei due recuperi. Siamo ancora qua a capire se con il Torino il Parma giocherà oppure no. Juventus Monaco, Dinamo Kiev, Fiorentina, Wolfsburg, Napoli, questo l'esito delle urne, ve lo ricordo, oggi all'ora di pranzo, questo il cammino delle tre italiane rimaste tra Champions ed Europa League. Luciano Milano, buongiorno. Pronto, buongiorno. C'è perché ascoltare tutti questi fenomeni che parlano questi presidenti qui c'è proprio da ridere. Secondo me il pallone sono il futuro del cabaret italiano, no? Questi sono dei fenomeni, sono i Ronaldo dei presidenti. Sì, sì. Beh, Ronaldo dei presidenti non lo so. Dal punto di vista dei presidenti, Manenti non credo, anche se aveva detto di ispirarsi a quello del Real Madrid, cioè Florentino Perez. Il presidente del Varese non ha elementi per giudicarlo, se non sulla base di quello che dice è divertente. Ma io volevo precisare una cosa, parlando sempre dell'Inter, e secondo me non la considero una squadra di calciatori, ma la considero una squadra di ragliatori. Sì, perché secondo me io non ho mai visto tanti asini nella mia vita giocare a calcio. Perché addirittura. Ma sì, ma dai, parliamo chiaro, insomma, io penso che uno come Ranocchia o come Juan Jesus neanche nel Villa Pizzone lo vogliono, perché secondo me c'è gente che gioca molto meglio. Ma io, Luciano, io sarò impopolare. Allora, Juan Jesus non mi piace. Su Ranocchia io posso tenermi qualche riserva, cioè non è un fenomeno, ma è un giocatore che in un impianto, in un apparato un po' più solido riuscirebbe a fare certamente miglior figura. Cioè, pigliamo Ranocchia oggi, lo mettiamo in mezzo alla difesa della Juventus, magari non è Bonucci, però non fa quelle figure cui è esposto all'Inter, che è una squadra totalmente senza equilibrio. Francesco Latina, grazie Luciano. Francesco da Latina, buongiorno al volo. Buongiorno. Buongiorno a tutti. Intanto mi fate parlare dopo il tifoso della Periscrittese, un po' mi dispiace perché sono tifosissimo della Juve, però vabbè, vi carieremo questa cosa, non ci pensiamo. Volevo parlare solamente riflette sulla crisi della Roma, che è una piazza che si monta, come dico io, come si smonta. Sì. Secondo me basterebbe ripartire da un pochino di correttezza e lealtà sportiva, come ha fatto Klopp. Un signore, dopo la sconfitta, ha preso tutto e ha detto: la Juve è più forte, punto. Abbiamo perso, punto. Dopo la sconfitta con la Juve, la Roma, Garcia ha detto: vinciamo lo scudetto, vinceremo il tricolor. La piazza si è caricata, sono molto emotivi e non faranno nulla fino a che non ripartono dall'umiltà di dire: c'è una squadra più forte. Adesso la Roma non ha gioco, non ha schemi, non ha uomini, non ha palle, se mi passa del termine. Quindi tutte le altre cose sono alibi. Ma prima ce l'aveva stata... però, prima, sì, l'anno scorso sì, ma con una sola competizione, senza altre mordenti. No, ma quest'anno, ma secondo me non è neanche un discorso di competizione, è letteralmente esplosa la Roma. Poi Roma e la piazza romana non sono Dortmund e insomma e le piazze tedesche. Sarà banale, ma penso ci sia un fondo di verità in questo. Allora, dobbiamo chiudere. Grazie a Giorgio De Luca, il nostro autore, a Pietro La Corte in regia, Daniele Bonamici in redazione. Domenica alle 5 ci sentiamo con Giovanni Capuano. Ciao. Buonasera, Presidente. Buonasera, Marino, come sta? Col baffetto oggi, guarda che fa un teccaruccio con sta cravatta. Che c'ho da dire alla cravatta di Bartoletti? Voglio regalo io la cravatta.